Io c'ho paura, Duccio. Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi? Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on. Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we try to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it. You and the song have gone, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Buonasera a tutte e bentornate a Tabula Rasa sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa. Questa è una puntata speciale, infatti quello che tra poco sentirete è l'incontro avvenuto durante la festa per i 30 anni del COS alla Torre tra il Coltivatore, orto sociale attivo alla Torre dal 1997, che viene gestito anche da persone con delle neurodivergenze e che ha come obiettivo quello dell'inclusione sociale, l'assemblea permanente Smarginando, composta da geografi che condividono la prospettiva della geografia critica, femminista e radicale, e Alberto Vanolo, autore che abbiamo già avuto il piacere di ascoltare ai nostri microfoni con il suo libro La città autistica, nel quale attraverso l'incontro con le neurodivergenze prova ad immaginare un altro tipo di città, aperta alle differenze, dove immaginare altre relazioni e altri modi di vivere. In definitiva, una città migliore per tutte. Buon ascolto. Alla prossima. Qua abbiamo fatto un'associazione, fondato un'associazione di orticoltura, dato l'area verde che c'era, il Coltivatore. Facciamo orticoltura biologica e anche giardinaggio, volendo, presente una robinia gigante, quella vera che sta lontana, come tutti gli alberi monumentali sono sempre, non sono adatti a stare nei posti dove si fanno iniziative anche serali, soprattutto gli alberi monumentali, come sempre. Io purtroppo ce l'ho avuto sta maniaccia, ma sta che però insomma non facciamo orticoltura, e dato per questo motivo qua, aspettami con la telefono, scusate. Allora, il nostro è un orto sociale totalmente autogestito bene, anche da persone neurodivergenti. Sto facendo tutta l'assemblea. Magari è una persona super mega impegnata, ma potete capire. Alla torre, compilando la storia della torre. E c'ho da fare, sempre da fare, ciò. Che sei fanno qualcosa su sta maledetta linea 789, ma tempo che c'ha la no. No, perché veramente questi treni che si perdono facilmente vieni. Io canto che faccio il 22 giugno, quindi ci possiamo vedere. Ti saluto, ciao. Ciao. Aspetta, scusate un attimo. Chi era Vale? Il ex compagno delle medie che è diventato, che ho fatto l'eletto presidente dei comitati di quartiere dell'Euro. Ok. Quindi siamo un orto autogestito e facciamo sì orticoltura biologica, ma soprattutto cerchiamo di coltivare relazioni sociali. Nel nostro orto ognuno viene messo nelle condizioni di poter lavorare in completa autonomia, quindi assecondando quelle che sono le proprie propensioni naturali e il proprio bagaglio pregresso, esperienziale. Strappa le foto. Che qua un'altra che se mangiava. Quello che facciamo, quello che rappresenta per noi l'orto è anche un momento di decompressione, veramente fuga dai ritmi frenetici della città. Ecco perché quando abbiamo letto La città autistica abbiamo voluto così fortemente appunto avere questo incontro. In alcuni passaggi siamo sicuramente immedesimati in quello che è scritto, e in altri sono serviti appunto come spunti per delle riflessioni che noi forse in 27 anni non siamo nemmeno mai fatti, quindi veramente grazie Alberto. Mi ero dimenticato che una volta che quando a mensa mangiavo tanto e le ore successive dopo l'intervallo mensa sonnolenza me la sono rischiata e tutti cacciano via da un nuovo posto che sta sulla Nomentana, cioè il nuovo il centro sociale tipo la torre ancora, e invece prima e quindi già da tempo, quasi 10 anni prima le occupazioni, poi dopo è stato rinviato non so per che cosa, no? E hanno aspettato il cinquantenario della liberazione di Roma, il 4 giugno 44-94 per farlo, hanno aspettato. E però purtroppo con quegli sgomberi violenti ce l'ha fatta portare qua. Non mi aspettavo, certo, come dicevo prima, la robinia gigante proprio che sta isolata, tra virgolette, dalle attività notturne che si fanno alla torre, e quindi la notte quando si va all'attività non potevi farlo e dovevi minare quelle molto più piccole, come tu sapevi, compresa anche quella che sembrava un monumentale, invece doppia, che purtroppo c'è avuto una botta di un eucalipto che ci è cascato sopra, però tutto lì. Però oltre all'orticoltura, data la presenza di questo movimento vivente che solo di giorno piantarci piante della stessa famiglia, sotto famiglia la robinia, ovvero papilionace, con lo stesso colore del singolo fiore oltre che del grappolo, forma, cioè stessa forma del fiore dello stesso grappolo, dello singolo fiore come anche del stesso grappolo del papilionaceo, ma di colore diverso, non solo bianco ma anche giallo, crema, rosso, in questo caso Citisus, le cultivar genere Citisus, più anche Stilaburno Citisus, sia crema sia porpora e giallo, sia giallo e porpora, sia giallo e crema, che ci stanno bene. Importante che non facciano concorrenza, quello che importa. Anche piantarle all'orto non sarebbe male. Comunque anche insieme al maggio santo abbiamo piantarci tipo Came Citisus, Lembrotrope, se sono piantine, ma con fiore, come il maggio ciondolo in miniatura e con fiore di colore più scuro, giallo più scuro rispetto a quello del maggio ciondolo, come quello della ginestra. Grazie. E poi del progetto giardinaggio ne sono il presidente. Dai, mi ci ha letto Ilaria. Prego. No, tocca a me. Volendo. Ci sei presa. Vai. Grazie mille, io sono naturalmente emozionatissimo di essere qui e tutto super accogliente. Ho solo da imparare, insomma, da questa esperienza, da questo contatto. Ma vi racconto qualcosa del libro. Il libro è un libro che ho sentito molto il desiderio di scrivere, è un libro che è venuto molto velocemente, molto rapidamente, nasce dal fatto che io insegno geografia urbana, mi occupo di città da metà della mia vita e poi mi è capitato di avere un bambino autistico. Perché il fratello è autistico e ce ne sono esperienza per questo. Ok. E anche gemello, seppure terrozzicose, non idea che ci può dire. Teo è autistico, mi sono avvicinato al mondo dell'autismo, mi sono avvicinato dapprima come nella mia indole studiando e poi provando una certa insoddisfazione per quello che leggevo e per quello che mi offriva tendenzialmente sia la medicina che il welfare in senso stretto, non quella che era la narrazione medica ufficiale dell'autismo. Tenete conto che dell'autismo si sa relativamente poco, non voglio affatto, non sono né un negazionista, né figuriamoci, la conoscenza medica è assolutamente preziosissima, ma tenete conto che anche proprio le idee, le teorie sull'autismo di 20-30 anni fa fanno scoppiare da ridere, sono da buttare via, e 30 anni non è tanto, cioè, la maggior parte delle persone è qui da più di 30 anni. E, in particolare mi sono avvicinato un po' al dibattito sulla cosiddetta neurodivergenza, che è un modo di leggere, è un modo di riflettere sia su quella che è l'identità autistica. Non è che una persona diventa autistica nel momento in cui ha una diagnosi, la diagnosi ha tutti i limiti del caso. Ci sono molti modi di essere divergenti, in natura c'è una, statisticamente c'è una, c'è un gruppo tipico che appunto è la maggioranza, con uno sviluppo neurologico di un certo tipo, ma ci sono molti modi di essere differenti rispetto alla norma statistica, e non tutti i nomi hanno esattamente, non tutte queste categorie hanno un nome preciso. Tenete conto, adesso non vi annoio con la cultura dell'autismo, ma molte sottotipologie sono anche scomparse nel tempo, per esempio Asperger, per dire, che era una classica... Asperger, da non confondere, è un falso, uno pseudo-autismo. Sì, in realtà adesso si dice, non esiste neanche più, è scomparso dai criteri diagnostici ufficiali, insomma siamo tutti, c'è il gruppo più ampio dell'autismo che include anche quello che una volta era distinto come Asperger. Il punto, senza entrare nelle, in queste questioni, la storia della, della medicina dell'autismo è fatta anche di concorrenza fra saperi differenti. Un tempo se ne occupava la psicoanalisi, era considerata una forma di schizofrenia, poi se ne è occupata le teorie genetiche, in evoluzione, probabilmente fra 30 anni rideremo delle categorie che abbiamo oggi, mi sembra credibile guardando da quello che è accaduto. Ma più di tutto mi interessa, ho trovato molta fascinazione appunto da un dibattito sulla neurodivergenza che trae soprattutto le radici dalla politica femminista, dalla filosofia femminista, dalla filosofia queer, da tutta quella che è la politica dell'identità, i molti modi di acquisire identità e anche la dimensione politica di tutto questo. Tutto questo non l'ho inventato io, sono idee che ovviamente ho rapinato in giro. Quello che ho tentato di fare è coniugarlo un po' con quello che era il mio campo di studi da sempre, cioè la geografia. No? In geografia la classica cosa che facciamo è cercare di immaginare come qualsiasi cosa, anche cose apparentemente molto intime, hanno sempre una manifestazione dello spazio, sempre una dimensione spaziale. E questo io lo trovo molto potente nel caso dell'autismo, cioè l'autismo... È ingenuo immaginare che sia contenuto nella testa di una persona, che sia lo dico provocatoriamente, un problema nella testa di una persona. L'autismo prende forma proprio nel contatto fra la persona e tutto ciò che sta attorno, che può essere l'ambiente. Gran parte dell'esperienza dell'autismo ha a che fare con modi molto particolari di avere percezione degli stimoli sensoriali, dei rumori, delle luci e tutto, sia in contatto con la società, le persone, l'ambiente, anche l'ambiente fisico della città, è un modo di stare al mondo. E in più, nella mia, quella che è la mia esperienza personale, che ovviamente non vale nulla e la mia esperienza personale non ha nulla di generalizzabile, però la mia conoscenza dell'autismo viene in larga misura da quello, dal mio ombelico, cambia moltissimo lo stare a contatto con una persona autistica in un certo ambiente e non in un altro. C'è molta geografia da questo punto di vista, ci sono gli ambienti che sono difficili, in particolare gli ambienti molto, per esempio, codificati, gli ambienti dove una situazione di questo tipo, dove bisogna star seduti, ascoltare, rispettare il turno dell'altra persona, sarebbe molto difficile per mio figlio o per un'altra persona autistica. Situazioni dove invece c'è un ampio margine, ma è solo un esempio questo, di tolleranza rispetto a modi di comportarsi, chiamiamoli differenti, minoritari, rende tutto estremamente più facile. Io da quando ho scritto il libro sono entrato in contatto, non so se il libro è quello che è, non so, con tutti i suoi limiti, però evidentemente c'era un'esigenza, c'era un'urgenza di parlare di certe cose, per cui mi è capitato di intercettare molte persone, per esempio il comitato di studenti nella mia università, io vengo da Torino, abbiamo avuto un momento di confronto rispetto a questo, mi si descriveva quanto sarebbe importante per studenti e studentesse neurodivergenti potersi togliere le scarpe, che è un problema classico, nel senso la pianta dei piedi è molto sensibile, le persone autistiche sono molto differenti fra loro, non tutti hanno problemi con le scarpe, però è una di quelle cose un po' ricorrenti, quindi togliersi le scarpe, scasciarsi un po', sedersi in modi strampalati. Ora, tutto questo è un problema, ma no, figuriamoci, è un problema se ti togli le scarpe, tutti ti prendi, guardano male, ti immagini. È chiaro che ci sono contesti dove diventa un problema togliersi le scarpe, ci sono contesti dove non è un problema togliersi le scarpe. Io credo che qua, se qualcuno si togliesse le scarpe, non ci sarebbe alcun problema. E questa cosa delle scarpe è una stupidaggine, ma è una buona chiave di accesso per riflettere su quali sono luoghi più o meno tolleranti. Io nel c'è scritto quello che è nato appunto è una riflessione su come immaginare una città. Io città non vuol dire necessariamente il confine municipale, città è inteso come vivere comune, come urbano, come immaginare città che possono essere più adatte a vivere una condizione di neurodivergenza, ma qualsiasi tipo di condizione di neurodivergenza. E quello che alla fine, man mano che andavo avanti, veniva fuori è che non necessariamente una città aperta alla neurodivergenza è una città che riguarda solo le persone neurodivergenti. Vorrebbe essere ambiziosamente un progetto per tutti, perché molte delle questioni che sollevo sono questioni alla fine di buon senso, che possono riguardare chiunque, anche chi non ha una diagnosi in senso stretto. Anzi, mi piace molto un'idea fluida dell'appartenenza a questo tipo di identità. Posso avere una diagnosi o no, posso identificarmi in una cosa o no, non è importante se ho certe esigenze, se ho bisogno di identificarmi. Posso voler essere visibile rispetto a una questione di neurodivergenza o voler rimanere invisibile, mimetizzarmi. Io, con tutte cose che racconto della mia micro esperienza con mio figlio, ci sono situazioni dove mi piace far finta di non essere autistico e situazioni in cui invece mi viene comodo incitarlo. Ci si muove anche proprio un po' a seconda delle situazioni. E non ho ovviamente delle ricette vere e proprie, ma nel libro cerco di tratteggiare alcune ipotesi. La dimensione di città autistica, vabbè, mi piace innanzitutto quello che è il grande progetto culturale è cercare, io ovviamente non è che sia in grado di farlo, ma l'idea, l'orizzonte, destigmatizzare la parola autismo o neurodivergenza. È una condizione come tante altre, e nel libro io lavoro un po', perché venivo da lì, era una cosa che avevo letto ben prima di incontrare l'autismo, con il dibattito queer, il dibattito femminista. E un libro, probabilmente qualche decennio fa, un libro intitolato La città gay avrebbe suscitato qua, no? Gay in che senso? È chiaro che c'è stata un'operazione di normalizzazione fortissima, di politica della presenza, per cui insomma, in ambienti di buon senso la questione dell'orientamento sessuale non frega niente a nessuno, neanche più. Non voglio dire che le lotte siano finite, c'è moltissimo orizzonte anche lì da andare avanti. Nel caso dell'autismo qua è tutto da inventare invece, cioè, per esempio anche riguardo alla questione del linguaggio ci sono modi orrendi, ma anche in televisione, anche da parte di professionisti utilizzano un linguaggio fortemente scorretto, un linguaggio che fra qualche decennio farà scoppiare da ridere. Ma secondo te c'è bisogno di una sorta di rivoluzione del linguaggio, visto che, come dicevi tu, è proprio quello che plasma poi le nostre idee, il modo in cui comunichiamo, il modo in cui pensiamo? Sì, ma questa cosa, ripeto, naturalmente non l'ho inventata io. C'è questa esigenza e sta prendendo forma adesso. E prende forma soprattutto in ambienti più aperti, persone più giovani, ma nel mondo di Instagram, per esempio, ci sono rockstar dell'autismo che portano avanti questo discorso in modo anche molto politicamente rilevante e convincente. Il problema è che sono bolle che riguardano una nicchia di persone sensibili al tema, non necessariamente autistiche, anzi sono delle bellissime alleanze proprio con forme di resistenza queer, neuroqueer, forme di resistenza anche anticapitalistica, perché il tema del capitalismo è un qualcosa di, se volete, possiamo affrontare, che è trasversale a tutto. Sì, infatti te lo volevo chiedere, secondo te che ruolo ha il capitalismo, anzi che rapporto ha il capitalismo con gli spazi in cui ci troviamo a muoverci e che viviamo tutti i giorni, e in che modo questo poi in qualche modo limita non solo poi le persone divergenti ma tutti noi, in qualche modo ci impone un essere che forse neanche ci appartiene. Dunque, la questione della stigmatizzazione sociale dell'autismo non credo che sia direttamente connessa alla questione capitalistica, ma il capitalismo plasma qualsiasi cosa, si impossessa di qualsiasi cosa e quindi si impossessa anche del discorso capitalista. Ci sono tantissimi, vuol dire, così come la città è una questione capitalista, noi viviamo in una città capitalista, il capitalismo regola gran parte delle relazioni, delle forme, tutto ciò che abbiamo intorno ha a che fare col capitalismo, o un tentativo di accomodare le esigenze del capitalismo rispetto a dove viviamo. Anche nel caso della neurodivergenza, dell'autismo, ci sono delle relazioni. In particolare, e qua rapino idee da quello che viene chiamato il modello sociale della disabilità, la città capitalistica rende dura la vita a chi non produce, non consuma come lo standard vorrebbe. Il mondo dell'autismo è estremamente differenziato, per cui anche culturalmente abbiamo il problema che utilizziamo la stessa parola per indicare persone come Elon Musk, che voi sapete si autodichiara autistico, persone altamente performative, molto spesso anche legati alla performance capitalistica, e persone che invece sono disabili. L'autismo non è sinonimo di disabilità, ma può accompagnarsi spesso a forme di disabilità, e la disabilità rende difficile immaginare una collocazione della città capitalistica che noi conosciamo. La sfida della città autistica non riguarda certo forme di minoritarie di differenze, non riguarda la persona che parla poco, è un po' eccentrica. Qua la sfida è chi è radicalmente diverso e chi non può lavorare. È un problema forte, perché gran parte anche della narrazione pubblica è insegnare a fare i tortellini alle persone autistiche. Massimo rispetto per questa cosa, ma possibile che sia solo questa una chiave? La massima aspirazione, dici? Ma non solo, e poi comunque ci sono persone che non possono fare i tortellini, non è per tutti, e quindi loro cosa diventano? Un piano C, un D? Si fanno incazzare. Ci sono anche forme di... Io non vorrei aver dato nel libro un'idea un po' romantica dell'autismo, ci sono anche aspetti sgradevoli dell'autismo, ma si vivono, fanno parte dell'incredibile quantità di differenze. Quando si incazzava mordeva, mio fratello quando si incazzava aggrediva e mordeva, cercava gli occhi, perfetto, bastonava con gli oggetti. E l'idea è come così, possiamo immaginare non so che oggetto prendere, tanta facendo fino faceva male a tutti. Faceva così. E che strategia è adottare per evitarlo? Gli dai il tempo di farsi passare il momento. Non è così. Non potevi reagire, sarà peggio. Così e mordeva pure. Una così poi. Però Alberto, io come faccio a capire quando sto supportando una persona, quando le sto offrendo il mio aiuto e quando invece la sto limitando? Perché poi, come dici anche tu, entro in gioco tantissime cose, no? Magari gli occhi delle persone che non conosco, che mi sta guardando per strada, quindi come faccio a capire come comportarmi? Non lo so, però porsi il problema già è un orizzonte proprio nuovo. Semplicemente non c'è una sensibilità da questo punto di vista. Si tratta di... è la prima volta che ci troviamo, è come non so, faccio un salto, come nella questione tipicamente paternalistica e tipicamente della cultura mascolina che ha inquinato, come sappiamo, gran parte dei rapporti. Nel momento in cui ci poniamo il problema, come ci si pone allora rispetto a tutto questo? Non lo so, parliamone. Qua la cosa è molto rilevante e importante. Innanzitutto abbiamo molte persone autistiche che sono in grado di elaborare una propria rivendicazione, una propria responsabilità. Quindi il primo passo è ascoltare cosa hanno da dire, e ce n'è già da vendere. Poi, ponendosi un obiettivo ancora più elevato, io ho l'impressione che anche persone che non hanno apparentemente la capacità razionale di fare un discorso secondo gli standard della comunicazione politica, in realtà hanno istanze politiche, dicono cose che non sono esattamente il tipo di cose in sequenza logica che puoi portare in un tribunale, però possiamo, anche io vengo dalle scienze sociali, c'è un dibattito su come cercare di sviluppare dei metodi, degli approcci che diano un senso anche a ciò che non è espressamente verbale. Comunichiamo i nostri desideri, le nostre emozioni, il nostro modo di stare nel mondo in un universo di modi, e decolonizzare anche quella che è il linguaggio del diritto, della rivendicazione lineare. Proviamoci, non ve lo dico io come, però è un bel modo di porsi il problema. Riattacchiamo a questo. Mi chiedevo un discorso generale, indipendentemente il discorso di queste categorie che tu hai accennato. Da un lato io sono perfettamente d'accordo, perché nel senso, anche come nostro progetto, noi cerchiamo appunto di fare in modo che cessino le distinzioni tra chi partecipa. Però poi mi rendo conto che a livello sociale, amministrativo, come puoi gestire proprio brutalmente, perché come dici tu, non tutti possono fare tutto. E non volendo mettendo in un'ottica positiva, io volendo distinguere come dare un sostegno a chi appunto non può fare tutto, penso una pensione, una cosa, in qualche modo, però in quel modo lo sto categorizzando, cioè sto dicendo tu hai bisogno di un sostegno perché non puoi fare tale cosa. E io entro in un cortocircuito mentale, perché se da un lato voglio che questa cosa, cioè che tutto sia uguale a tutto, però poi mi rendo conto che non riesco a farlo da quel punto di vista. E tu parte mi hai risposto dicendo non lo so, perché giustamente è uno intellettuale, però è uno spunto di riflessione che non riesco a capire, come se poi magari che ci hai pensato di più darci una mano. Io spero di non deludere ogni aspettativa, ma anche qui non ho una risposta, però è ovviamente un problema che mi pongo. Allora, un pezzo del mio libro, un pezzo della mia riflessione riguarda proprio la questione delle categorie. Io le categorie le ho trovate sulla mia pelle, sulla mia esperienza come genitore, ma secondo me riguarda un po' tutte le categorie. Sono problematiche. Io pesco anche qui da un'altra letteratura. Cosa vuol dire, per esempio, essere gay? Vuol dire essere non eterosessuale? Vuol dire che una volta ti è capitato, che ci hai le fantasie omoerotiche? Sono categorie aperte. Nel momento in cui tu definisci una cosa, una categoria dentro o fuori, è problematico. E la stessa cosa riguarda la questione dell'autismo. Capita molto spesso sentire persone che ma anche io sono un po' autistico, quasi come se fosse celebratorio. Questa cosa cos'è? Appropriazione? Un senso universale dell'autismo? È complicata come faccenda, nel senso, da un punto di vista politico apparentemente è un bene che la categoria includa qualsiasi cosa, e la tendenza è un po' questa. Noi sappiamo che il numero di diagnosi è aumentato incredibilmente, ma non solo perché è aumentato il numero di persone che si sottopongono alla diagnosi, che culturalmente mettiamo nella categoria autismo sempre più cose. Attenzione, una cosa, io mi sono scordato la cosa, per non diventare autistici tra virgolette, è che ma non bisogna mai illudersi prima del tempo, devi dare forti enormi delusioni che quelle ti mandano, ti fanno diventare autistico, perché magari mai illudersi prima del tempo, mai e poi mai. E quindi bisogna sempre le illusioni è meglio lasciarle da parte, magari per ultimo, non mai in primis. Perché sennò se ti succede una delusione enorme te la levi più e ti infurisce il cervello e ti fa ammalare di mente. Io lo pensavo, ci sono anche delle illusioni belle, non tutte. Si vive illudendosi di sono andando ad andarci con piedi di piombo. Con le mani palme all'orto, pure quello è un sogno, no? Tu le vuoi? Sì, se c'è la camera posso metterci una più grande, tipo la Buzza che c'ha quei frutti che grossi quanto la ciliegia col sapore di ananas. Buzza è capitata. Torno alla questione. Anche secondo come impostate le colazioni in cui quando uno fa le medie, che magari devono essere anche le merende, quelle, l'intervallo, quello no, quello mezza, quello panini, quando uno si mangia un panino alla ripresa della lezione dopo l'intervallo è normale che uno si addormenta quando mangia pesante, vale il salame a merenda. Sì. Anche lì ti cacciano via la torre se tratti male l'insegnante, mentre invece mio fratello non avrebbero detto perché è ammalato, non gli si può dire questo, ti cacciano via la torre, Enrico non gli si può dire, mio fratello. Poi, nel senso che mi c'è la madre, la robina gigante non la vedi se ti cacciano via la torre, non la vedi. La robina gigante, perché il territorio è la zona limitrofa, anche se non vicinissima. Per un momento diverso. E di questo proposito, due cose, sempre l'ortofloricoltura, no, qua si sbaglia autistico, lasciamo. Senti, credo che le categorie siano utili, ovviamente, le categorie ci permettono di orientarci al mondo, di economizzare la vita, gli interventi, vado pronto soccorso, ho una categoria, sanno cosa farmi, c'è un pacchetto di cose. E quindi in qualche modo la mia critica alle categorie non vuole certo essere abolizionista delle categorie. E quindi in un mondo di l'accesso al welfare di cui parlavamo prima, riconoscerà delle categorie, per il mondo così come lo conosciamo, riconoscerà la categoria, eccetera. Devo però dire, e la butto lì come fantasia fra amici, chi è vicino al pensiero anarchico, in geografia c'è una tradizione fantastica di legame col pensiero anarchico, in una comunità anarchica non ci sarebbe bisogno di questo, ognuno contribuisce per quello che può contribuire, prende quello di cui ha bisogno e si viaggia su un altro canale che è comunitario. Ora, io non parlo di anarchia nel libro, non sono neanche così competente, però il passaggio da una dimensione individualistica a una dimensione collettiva, quando parliamo di questa cosa, è indispensabile, perché non può cadere sulla testa della singola persona rivoluzionare il mondo, aprire la propria realtà aperta all'autismo. Dovrebbe essere una cosa di cura collettiva, cura nel senso femminista del termine, non nel senso medico, collettiva. Mi riallaccio un po' a quanto è successo da poco. Nel libro parli anche di una sorta di soddisfazione e divertimento nel lasciare spazio a comportamenti un po' eccentrici e chiassosi, no? Un po' anticonformisti. La libertà in questo caso diviene un modo per sovvertire un po', ribaltare gli equilibri di un patto sociale in cui spesso le persone che ne fanno, diciamo, un po' pagano lo scotto sono i familiari. Nel libro utilizzi invece il termine pancautismo, che ne coltiva chiaramente, piace tantissimo, ci vediamo tantissimo. Ti voglio approfondire invece questo termine? Sì, non c'è moltissimo da dire, nel senso, io vivendo a contatto con una persona, con un bambino, con un ragazzino, insomma, autistico, è un ragazzino che è totalmente inadatto alle norme della vita sociale più consuete. Per cui se adesso mi dicesse scappa da pipì, mio figlio parlocchia, dice delle parole, parole, ma non è che ti racconta cosa ha sognato stanotte, ti dice voglio l'acqua, voglio cose molto semplici, e mi chiedesse di andare in bagno, e dico dai vai al bagno in fondo a destra, magari si cala i pantaloni e parte col culo di fuori per andare verso il bagno, a volte lo fa. Ora, questa cosa... se tu la vivi male, la vivi male, non c'è niente da fare. Tanto lui è così, voglio dire, sì, posso fare un lavoro, lo farò nel tempo, gli spiegherò che è opportuno che se li cavi solo l'ultimo momento i pantaloni, ma è solo un esempio, ne ha mille di comportamenti fuori luogo. Un'altra strada è viversela bene, nel senso, io quando ho avuto il primo impatto con la diagnosi, ma con la diagnosi neanche, quando sono incominciati gli aspetti più duri della vita con mio figlio, provavo, soprattutto dirsi, vergogna, sentirmi inappropriato, sentirmi fuori luogo in molte situazioni. E quindi la tentazione che viene a molte persone, non mi sento dire che sia individuale questa storia, diffusissima, molte persone, soprattutto per chi ha una condizione privilegiatissima come la vita e come la mia, nel senso, boh, ho un buon lavoro, me la passo bene, non è, e prendo e vado fuori, mi isolo dalla città, vado in cima a una montagna, mi faccio la mia realtà con gli animali che mi piacciono tanto e così via, quindi una fuga. E io davvero non voglio dare una valutazione morale di questo, è fantastico, ci sono persone che hanno risolto la propria vita così, però di nuovo è lo sforzo individuale di chi riesce a alle risorse per creare il proprio mondo. A me poi non era nella mia indole, per me è cambiato tutto quando ho detto ragazzi non me ne frega un cazzo, e quindi me la sono vissuta in modo molto ruspante questa cosa, e non nascondendo, guarda, ci sono anche situazioni in cui trovo più conveniente nascondere la strada, ci sono delle situazioni in cui è bene anche che impariamo, ne parlo collettivamente, io e mio figlio, a nasconderci, perché è opportuno così. E ci sono situazioni dove, tutto sommato, mi piace questa presenza punk, volutamente punk, e forse mi piace anche immaginare che possa portare qualcosa di buono al mondo, nel senso, il mondo è fatto di molti modi, voi sapete che anche da un punto di vista strettamente non mi viene la parola, ecosistemico, insomma, un ambiente dove siamo tutti uguali non va tanto bene, cioè, insomma, se ci accoppiamo fra persone sempre uguali non va bene, serve la diversità, la varianza, e serve anche qualcuno che faccia qualcosa di molto strano, che porti un contributo così. Poi, non so se è vero o falso, ma il punto è che molte cose dipende davvero come te le racconti e come te le vivi, e quindi ci sono degli ambienti dove ti rendono molto facile questa stranezza e ambienti che te la rendono molto difficile. E vabbè, posso parlare per ora. No, ci ricongiungiamo in realtà, sì, proprio a quello che stavi dicendo, perché noi qui in questo contesto, sì, siamo proprio, ci siamo ritrovati un po' in quello che racconti tu, che fai quella dicotomia tra campagna e città, la non neutralità dello spazio urbano, e noi viviamo una realtà un po' particolare, perché siamo praticamente campagna all'interno della città. Questa fino a pochi anni fa, insomma, pochi decenni fa, era proprio campagna, ci sono ancora i casolari contadini, come questo. Ma questo è un palazzo, un palazzo, però, questo. Era, diciamo che noi approfittiamo di questo contesto particolare per due valori importanti, che sono l'inclusione, come accennava anche prima Noemi, e la decompressione dall'urbanità. Se ci vuoi un po' accennare all'interno del tuo libro, soprattutto sulla decompressione, perché sì, dei riferimenti particolari ci interessavano molto, insomma. A me molte persone autistiche hanno soprattutto una particolarità nello schema, nel vivere gli stimoli sensoriali. Secondo alcuni autori autistici, l'essenza dell'autismo è sensoriale e non cognitiva, nel senso che i rumori diventano, alcuni rumori molto importanti, alcuni stimoli visivi molto, molto forti, e questa cosa si accumula con meccanismi molto complessi, dando origine anche a possibili crisi. Per le persone autistiche è importante avere degli spazi tranquilli. Qua c'è un problema che è enorme. Il concetto di spazio tranquillo, come per qualsiasi persona, cambia enormemente da persona a persona. C'è chi si sdraia sull'erba e si rilassa, c'è chi si sdraia sull'erba e si sente malissimo perché l'erba ha un profumo intenso, delle forme, arriva l'insettino. Non è per tutti, non voglio dire che l'urbano sia sempre stressante e la campagna sempre rilassante, però quello che è evidente è che ci sono dei ritmi differenti qui, ci sono dei pericoli differenti, cioè banalmente le auto, è vero che il nostro vecchio si abitua ad assimilare, però l'auto che passa è una cosa, è uno stimolo negativo, non c'è modo di viverselo bene. Credo che dico una banalità, ma è anche un dato di fatto, le banalità sono reali. Gran parte della narrazione sulla città ideale, vada in una direzione. La città 24 ore, piena di stimoli, fai qualsiasi cosa in qualsiasi momento, è tutto eccitante, passi per casa, per strada c'è il musicista. Ok, non voglio dire che sia brutta quella cosa, ma non è per tutti. Nel senso, quella cosa copre le esigenze, il desiderio, il modo di immaginare l'urbano di una certa parte della popolazione. Possiamo discutere anche quanto sia reale il piacere che ti dà tutto questo, quanto sia immaginario, quanto sia un prodotto del capitalismo stesso. Però ci sono persone che tutto sommato si rompono le scatole di questo continuo bombardamento. Hanno bisogno invece di roba tranquilla, roba anche tutto sommato un po' ripetitiva e monotona. Possiamo parlare molto del ripetitivo, perché insomma tutti noi comunque abbiamo una tendenza, abbiamo bisogno della rassicurazione del ripetitivo entro certi limiti. Qualcuno ce l'ha tantissimo, qualcuno ce l'ha poco. Spazi di pensare delle città, degli spazi di decompressione, per esempio, sarebbe un altro tipo di politica, di non la chiamerei neanche di inclusività, di sensibilità rispetto a chi ha delle esigenze differenti. E parliamo di questioni che tra l'altro non hanno un costo economico rilevante, non sto chiedendo la luna, semplicemente di incorporare tutto questo. Questa cosa incomincia a prendere un poco forma quando si organizza un festival, quando si organizza un evento, ci si preoccupa sempre più di che sia accessibile per chi ha disabilità motorie, per esempio, e che magari abbia anche uno spazio dove chi ha altri tipi di peculiarità possa rilassarsi un attimo. Capita spesso, capita ogni tanto, incominciamo adesso a porci questo tipo di problema. Non è soltanto, io mi sono trovato a confrontarmi con questa cosa degli spazi di decompressione, perché di nuovo è nato un po' dopo il libro è andato un po' e mi aveva contattato una persona dicendo dobbiamo organizzare degli spazi autistici, e pensava a effetti speciali, sponsor, era tutta proprio quanto di più distante, abbiamo perso i contatti alla velocità della luce. Però mi ha dato il modo di pensare, sì vabbè, quella roba non la voglio, ma come dovrebbe essere uno spazio autistico? In realtà dovrebbe essere uno spazio dove entri, ti togli le scarpe, dove fai il cazzo che vuoi, dove tutto sommato, vabbè, eviti proprio le luci al neon, il boom boom, eviti, ma piccoli accorgimenti di sensibilità. Io immagino che in questo posto sia possibile, se sono qua da due ore non lo so dire, ma occorre questo tipo di accoglienza, questo è uno spazio di decompressione. Ora, per esempio, io nel libro non ne parlo di questo, ma l'ambiente scolastico, per esempio, è vero che aumenta la sensibilità, ci sono persone, però le scuole non sono costruite con quel taglio, è tutto diverso, ti insegnano a star seduto. Sì, poi puoi essere l'eccezione, vai nella stanza con i cuscini improvvisata nell'ex gabuzzino, però sì, manca completamente, cioè voglio dire, io non ho risposte, ma qua è proprio bisogna inventare l'ABC di tutto questo. Allora, intanto grazie al coltivatore che insomma ha deciso di rilanciare questo momento di cui secondo me c'era molto bisogno, e grazie ovviamente ad Alberto che è l'autore di questo bel libro che invitiamo tutti a leggere. E io ho trovato un sacco di spunti molto interessanti, io pure sono un geografo, quindi l'ho provato un po' anche a leggere con quello sguardo lì, anche perché mi viene naturale, diciamo. Ormai non me lo ricordo più, e conteneva effettivamente diverse questioni interessanti. Una delle prime, quando si raccontava un po', diciamo, la letteratura e di Disability Studies si faceva un'attenzione allo spazio pubblico e una definizione che per me è stata assurda quasi, diciamo di spazio pubblico come quello esterno alla casa e spazio privato come quello interno, diciamo, quindi uno spazio domestico, che in un certo senso è una visione molto punk per me, perché giustamente in una concezione anarchica tutto sarebbe in tutto, le risorse di questa terra, diciamo, non è che potrebbero essere controllate effettivamente da qualcuno. Poi certo arriva la proprietà, arriva un sistema liberale di un certo tipo, divide, e per cui oggi noi ci troviamo anche a fare battaglie su quello che è lo spazio pubblico, a difenderlo, e però effettivamente si potrebbe in un colpo cambiare un po' lo sguardo e approcciare un po' con un altro occhio. E quindi mi chiedevo se questa visione di spazio pubblico e spazio privato come spazio domestico è una visione che nasce da uno sguardo altro, che può essere anche, diciamo, influenzata dal modo di vedere il mondo di una neurodivergenza, di una persona autistica e quant'altro, o se è diciamo, la ricerca che poi nel bisogno, diciamo, di scoprire anche un po', di scrivere e catalogare, ha notato questa questione. È una domanda difficilissima. Spazio pubblico e spazio privato sono categorie che sono diffusissime nel linguaggio comune, ma in realtà perché non ci interroghiamo su cosa significhi? Nel senso, un bar è uno spazio pubblico o uno spazio privato? Beh, è di proprietà di qualcuno, quindi da quel punto di vista è privato, però non è che puoi fare quello che vuoi. Se hai un bar non puoi dire tu sì, mi piaci, entri, tu no, è un esercizio pubblico da questo punto di vista. Ma noi, la definizione giuridica, sappiamo, non frega assolutamente niente. Rimane molto diffusa nel linguaggio comune l'idea che la casa è lo spazio privato per eccellenza, lo spazio pubblico è quello, proprietà del pubblico. Gli spazi, i negozi, questo sono qualcosa di intermedio, non ci poniamo il problema. Ora, quello che fa una letteratura più radicale, insomma, è cercare di mettere in discussione questa cosa. La tua casa privata ha una dimensione politica pubblica. A parte che i confini sono molto porosi, ma banalmente, anche legalmente, non è che a casa tua puoi fare quello che vuoi, puoi mettere un inceneritore. Ci sono delle. Siccome la città e il vivere assieme è comune, anche casa tua in qualche modo è collegata a una dimensione pubblica. Ma più che quello, è interessante l'opposto, cioè come rendere la città un po' casa tua, cioè come domestificare, adesso funziona, in inglese funziona meglio, come rendere un senso, si usa spesso la metafora di la città, la casa di tutti, la città come casa comune, questa cosa è importante, però la città casa comune vuol dire di tutti e tutte, e la riflessione è proprio questa, è veramente di tutti e tutti, o tutti quelli che si comportano in un modo che è coerente con le regole della casa. Ecco, mi sono fatto il bar, ti piace, vuoi venire, l'altro no, mi ha fatto ricordare una cosa, che questi anni, sia con l'esemplare di Robinia qua, che pensando a sfruttarlo per monumentare, tra virgolette, uno di dimensione solo così di tronco, l'altro invece due fusti nati su da una ceppaglietta che si era di un'altra specie di robinia che si era seccata e erano vicini. E come si suol dire, ho detto il discorso di prima, che gli alberi monumentali di solito stanno lontani da dove si fanno iniziative serali. Questo discorso ricorda, come dire che dentro il bar gli alberi monumentali non li trovi. Questo, come diceva prima, dare un luogo pubblico, ma sempre questo mi ha fatto ricordare che fino a che non è successa la botta di quella tempesta, magari è caduto. Sì, magari il gigante già si sapeva, però insomma, se è stata di recuperarlo, farla diventare monumentale come questa, come anche quella cascata 6 anni prima, questa di qua. Stesso identico discorso, la parte del blocco pubblico, perché non mi piace, ma non mi piace. Questo mi ha ricordato. Ma come nota di colore, per tornare alla, alla cosa di prima, che parlavamo del punk autismo, beh, mio figlio per esempio non ha alcuna distinzione tra pubblico e privato, adesso calarsi le braghe qua in bagno vuol proprio dire tutto è casa mia, apre il frigo di qualsiasi persona, no, è, che ovviamente è problematico, questo lo racconto per ridere, però è una soglia ulteriore di ripensare forse anche il confine tra le due categorie. Allora no, e questo diciamo punk autismo che ritorna molto nel libro, appunto apre diverse prospettive molto interessanti. Una di queste è che spesso ci si approccia ai temi della diversità in generale, è vero anche questo parallelo tra movimenti transfemministi, queer e movimenti invece di altro tipo. C'è un po' un atteggiamento che guarda tutte queste nuove istanze come istanze moralizzanti e quasi controllanti, che devo fare, cioè, c'è una vita normale che è in pericolo dalle nuove esigenze che stanno emergendo, no? Emerge spesso questo discorso e invece è interessante ribaltarlo completamente con questa chiave di lettura dell'autismo punk, per cui non c'è quella solita ottica un po' anche, come dire, evangelico-cattolica, dobbiamo con quell'accezione della cura molto morale, per cui dobbiamo prenderci cura degli ultimi, dei più poveri, è il contrario un po', e quindi si esce da quest'ottica molto morale. E era molto interessante perché allo stesso tempo quel discorso là mi sembra che stia tornando con prepotenza. In geografia abbiamo avuto un massimo rappresentante di questo tipo di pensiero, che è Vannacci, che chi non lo sapesse è stato insomma il direttore dell'Istituto Geografico Militare, quindi noi ogni tanto ce lo beccavamo proprio, e lui quanto forse un mese fa, poco tempo fa, ha proposto il ritorno delle classi differenziali, e questo è proprio secondo me dove sta un forte scontro di pensiero, per cui questo ritorno indietro quasi di teorie lombrosiane che sembravano completamente superate, che invece ritornano, e si ripropone quella visione per salvaguardare la normalità, come dice, no? È incredibile ma vero, il libro di Vannacci l'ho letto. Adesso non vorrei, so che gioco di casa, Vannacci è un coglione e quindi io non dedicherei particolari energie adesso a commentare Vannacci perché è grottesco, cioè, è fa ridere, ma no, non c'è nulla da dire. È ovvio che la presenza, io adesso non mi occupo di pedagogia, però è di buon senso che la classe, vabbè, insomma, con tutti i compromessi, vuole anche molta, immagino, creatività, non c'è una soluzione che va bene per qualsiasi contesto, ci sarà il bambino autistico che è, fa quel che può, ci sta ogni tanto in classe, farà anche altro, ci sarà una situazione invece dove si può puntare un po' più in alto, no, davvero, no, su questo non c'è nulla da dire, però la prima parte forse c'è qualcosa da dire, ma mi sono già dimenticato questo. La moralizzazione. La moralizzazione è un argomento terribile, allora io non lo so, a me mi era venuta questa cosa del punk autismo, ma era un gioco anche con me stesso di raccontarlo. Poi io in modo assolutamente neutro, dopo aver scritto, no, stava per uscire il libro, ho scoperto che c'era un altro autore che parlava di tepautismo, per cui non ho inventato niente, ho avuto ancora il tempo di metterlo in una nota, ma in realtà l'ho scoperto dopo averlo scritto, è un'esigenza. Forse molte persone hanno l'esigenza di viversela in un modo un po' come me, come il mio. Io racconto delle cose con l'idea che magari qualcun altro se la viva anche in modo simile. Ci sono anche persone che hanno bisogno invece di quel pietismo. Io lo trovo proprio una merda, è proprio la cosa che a me quando, come deve essere difficile, ma vaffanculo, ma cosa ne vuoi sapere? Quel tipo di atteggiamento lo odio e quindi ho tentato di una costruzione differente. Però ci tengo a dirlo, per qualche persona forse fa piacere quella cosa lì, sentirsi speciale, oggetto di pietà, di portare con sé la sofferenza del... Non lo so, ho bisogno di altro però. Io avrei ancora qualche domanda, ma forse per voi, noi se no tra geografi, qua siamo a geografare. Allora, no, qua si apre un'altra questione a me molto cara, cioè il decostruire una serie di approcci estremamente quantitativi che vengono inseriti, soprattutto in tema medico. Questo praticamente farebbe, diciamo, riconsiderare veramente tantissime letture, da anche l'obesità, questo approccio quantitativo in cui si parlava nel libro, ad esempio, delle tecniche ABBA, che tendono a valutare, a dare una valutazione da 1 a 10 alla gravità, diciamo, della risposta della persona autistica. E come si può decostruire questo? Perché effettivamente è anche un discorso che nel sapere alto, che sia universitario, che sia medico, ancora rappresenta forse la parte più forte. Questo è per me in assoluto l'aspetto più difficile da trattare, ed è proprio il passaggio del libro che ho riletto 10 volte, dicendo va bene se lo scrivo così, meglio se lo limo un po', e cioè il rapporto fra quella che è un tipo di discorso come quello che cerco di proporre io, chiamiamolo politico, culturale, sociale, e quello che è il sapere medico. Non voglio assolutamente, non è mio desiderio che siano in contrapposizione i due. Io non so come, ho bisogno di cercare di inventare un'alleanza fra le due, perché è ovvio che il sapere medico conta, è fondamentale. Qua il problema è che il sapere medico però ha dei limiti pazzeschi su una serie di altre questioni. Io nel libro, per esempio, parlo appunto di quello, il terribile calcolo dell'età equivalente, che è diffusissimo, per cui si prende una qualsiasi persona, facciamo l'esempio di un adulto per cambiare, tu hai 40 anni, però ragioni come uno di 6, ti muovi come uno di... Cioè, questa idea di restituire che lo sviluppo sia un qualcosa di lineare, si calcolano sostanzialmente le distanze rispetto a un modello ideale normativo. Noi in geografia da sempre critichiamo queste cose, l'idea che esista un unico percorso di modernità, uno percorso di sviluppo, non è che gli Stati Uniti siano il migliore degli stati possibili e tutti devono cercare di diventare un po' più simili agli Stati Uniti. Ridete, ma questo modello di Rostow è un classico della geografia dello sviluppo, si studiava appunto la distanza dei paesi dal modello della società con consumo di massa. E fa schifo, però mi fa male. A cosa serve oltretutto quel tipo di restituzione? No, ho bisogno di altre, la parola difficile, epistemologie, altri modi proprio di immaginare, un altro linguaggio per raccontare tutto questo. Secondo me non fa bene a nessuno. Poi anche qui riesco a immaginare che qualcuno mi piaccia misurare la performance. Siamo in una società dove contiamo i passi che facciamo ogni giorno, il sistema di enumerazione, di calcolo, tocca dei meccanismi molto sottili di ognuno di noi, quindi misurare i passi davanti. Ah, l'ho fatto 200 ore di terapia, guarda, è migliorato di 0,3 l'indice di performance. Io questa roba capisco che abbia un appeal, ha dei problemi. E chiaramente è un altro di quel modo di logica del capitalismo performativo che si impossessa delle cose. Ti posso chiedere una cosa? Sì. Abbiamo parlato del fatto che molti politici addirittura stanno proponendo di dividere le classi e tornare indietro nel tempo, mentre nello stesso tempo nell'ultimo anno diversi autori hanno trattato appunto la necessità di avere uno spazio più neutro e un linguaggio più neutro. Allora perché proprio adesso, secondo te, cosa è cambiato? Ma io, quando Vannacci è uscito con la sua cosa strampalata, in generale ho visto ovunque una levata di scudi contro quella cosa, quindi non so se c'era una strategia politica che non riesco a immaginare, però a me è sembrata una cantonata pazzesca. Credo che, non so, non è il mio campo, dico delle cose assolutamente generiche, in un momento di grande trasformazione, e secondo me c'è un momento di nuova energia trasformativa, mi sembra che ci sia molta sensibilità rispetto a certi temi, no, non parlo della neurodivergenza, però ad esempio nel campo delle, chiamiamo, identità di genere, del dibattito femminista. Sì, ho pensato anche alla verifica, parlo sempre dello spazio neurodivergente. Sì, sì. Però, di nuovo, è ancora un po' di nicchia quello, il discorso sulla disabilità. Il discorso invece decoloniale, il discorso femminista, ha un boom. Per qualsiasi libreria ci sono scaffali, roba che 10 anni fa era impensabile. Beh, nasce anche la forma di resistenza al cambiamento, nasce anche il pensiero più conservatore, nasce... immagino quale possa essere l'orientamento politico collettivo che mi sembra di percepire qui dentro, quindi insomma, non voglio neanche fare il classico gioco paraculo di parlare male, però è chiaro che cioè, si aprono spazi quasi vecchi tempi di una volta, quando gli uomini erano uomini e queste cose. E che hanno presa, c'è un pubblico che sì, ovviamente. Io poi come ultima questione, molto spinosa credo, perché noi pure, anche con il sostegno delle persone della Torre e con quelle del Comitato Mammut e del Casale Albadur, che sono altri due spazi diciamo vicini e cugini di questo spazio, abbiamo iniziato una campagna per riaprire Villa Tiburtina, che è un polo abbandonato di sanità pubblica. Era diciamo la struttura di riferimento per tutto questo territorio, più o meno, che 10 anni fa è stata chiusa e è rimasta abbandonata. Noi dopo la pandemia abbiamo deciso di attivarci per riaprirla. E quindi diciamo ci siamo messi proprio con le mani un po' in tutto questo grande mondo molto complicato della medicina, della sanità pubblica, rivendicando una sanità pubblica. Su questo si apre però un discorso non semplice, per cui anche nel libro giustamente si reclamava la necessità di servizi non istituzionalizzati, non medicalizzati, quindi si usa servizi, quindi probabilmente sì, comunque c'è una direzione che va verso un pubblico, però giustamente si sottolinea l'esigenza di trasformarlo questo pubblico. Noi anche su Villa Tiburtina un po' chiediamo questo, cioè noi vorremmo la riapertura di una struttura pubblica, ma non che funzioni come tutte le strutture pubbliche. Prima di tutto, dove all'interno proprio del funzionamento della gestione stessa ci sia una presenza anche dei non medici e degli abitanti, e quindi che si partecipi alle decisioni, che si partecipi anche proprio a livello di budget e che ci sia anche proprio uno spazio fisico. Però noi su questo diciamo abbiamo trovato la nostra quadratura, e invece ci siamo trovati anche a scontrarci con altre nuove esigenze. Nel discorso della società della cura c'è un tema forte che è quello delle infrastrutture della cura, che vuole anche un po' aggredire il classico ragionamento dello spazio pubblico un po' statalista. Ora io credo che sarebbe molto importante diciamo approfondire e parlare di questo tema, che è un tema anche tra le nostre famiglie diciamo politiche di forte scaccio, perché tra chi ha lavorato per sempre in ambito sanitario medico è impossibile diciamo rinunciare a una certa visione pubblica, e tra chi invece è figlio di nuove esigenze che toccano la decolonialità, il genere, la neurodivergenza, è impossibile, come dire, sottomettere la testa a quel tipo di ragionamento medicalizzante, istituzionale, eccetera. Come ne usciamo? Perché qua no, ma c'è il rischio che saliamo pure a scontrare contro un muro. Ai miei occhi è simile alla questione di prima, come trovare un'alleanza fra un potere medico e una rivendicazione politica completamente differente. Non lo so, ci sono stati altri momenti, altri fenomeni dove è avvenuto questo. Adesso non voglio parlare di cose che maneggio male, la riforma Basaglia e tutta quella fantastica stagione di ripensamento dell'idea di cura, dell'idea di... è stato un momento politico ma anche culturale, è stato un momento importantissimo. C'è, questa cosa c'è, è un'energia fortissima, nel senso che in ambiti molto differenti, prendiamo un caso completamente differente, tutto il tema sul diritto all'aborto, la questione dell'aborto, è chiaro che non puoi avere un approccio monolitico, dire questa è la soluzione giusta, ve la do, medica, statale, c'è bisogno di una... forse c'è bisogno anche di conflitto in questo momento. Di autentico conflitto fra idee, visioni, posizioni differenti. Io per tornare un po' ai miei temi, nel mondo dell'autismo questa cosa la sento fortissima, perché io sono stupito che tutto sommato non aver ricevuto troppe critiche per questo libro. Secondo me il titolo piace, tutto sommato passa in sordina, ma quello che è la mia visione è molto distante da quella che ho incontrato in alcune associazioni di genitori, posti assolutamente distantissimi come filosofia dell'intervento, come tipo di richiesta di quello che si vuole. Chiedono sostanzialmente, lo dico malamente, nessuno lo direbbe in questo modo, chiedono una cura per l'autismo, questo si vuole, una normalizzazione spinta il più possibile, sperare di riuscire a fare i tortellini, ma io lo trovo davvero massimo rispetto, lodevole, però forse c'è bisogno anche di questo, di contrasto. Voglio dire, pensate a un tema, non lo so, a me, in geografia facciamo collegamenti tra cose strampalate perché non sappiamo un cazzo, funziona, è un classico, quindi funziona, la mia mente è fatta così, dico superficialissime connessioni tra qualsiasi cosa. Pensate un tema come la questione ambientale. Quando è saltata fuori la questione ambientale per la prima volta, c'era un contrasto politico, la questione ambientale era il ragazzo della via Gluck, che bello l'albero e viva la natura, questa è una stupidaggine. Poi nel momento in cui comincia a prendere forma una seria riflessione sull'ambiente, ci sono gli ambientalisti di destra e di sinistra, che hanno visioni completamente differenti, come nel mondo queer, cioè ci sono le associazioni, per usare il vecchio linguaggio, gay, di un fascismo incredibile, e altre che invece hanno a che fare. Adesso non c'è ancora questa cosa, ma capiterà anche nella neurodivergenza. Io non ho niente in comune con certe associazioni che si occupano di autismo, che mi è capitato, mi chiamano anche, simpatizzando, ma io, in fondo, sta prendendo forma anche questo. Allora, volevo ricollegarmi un po' a quello che diceva Daniele di Smarginando e in realtà suggerire una parola che ancora non è uscita, che però esce nel libro. Tu parli di Torino e parli delle periferie, cioè del rapporto, no, senza cadere nell'autocelebrazione della periferia, che è un problema che posso avere, noi siamo, siamo in periferia, ve ne siete accorti tutti, siamo appunto, citava le varie realtà, il Casale Alba, il Mammut, che fanno un lavoro incredibile su questo territorio, a partire da Villa Tiburtina, il doposcuola, e insieme faremo il 22 giugno una festa di quartiere qua in Bibbia, a cui siete tutte e tutti invitati. E per ricollegarci al libro, insomma, tu parli della periferia di Torino e di come spesse volte sia un luogo in cui appunto quegli atteggiamenti un po' eccentrici, quel pancautismo di cui parlavamo, è quasi più spontaneamente tollerato e comunque è uno spazio di maggiore libertà. Non voglio romanticizzare né la marginalità né la periferia, cosa che faccio nel libro, non riguarda soltanto gli spazi periferici, era quello che anticipavo prima, ci sono degli spazi che sono estremamente codificati e normalizzati e non funzionano, e degli spazi che sono piuttosto aperti, al, chiamiamolo allo strampalato in generale, e in questi luoghi io nel libro racconto un aneddoto stupido. La prima volta che sono andato a mangiare fuori con mio figlio, era fra me e me una bella sfida, perché rompeva le balle, certo che vai a mangiare al ristorante, ma volevo che si abituasse a questo. E la prima volta sono andato in un ristorante molto carino, io abito in centro, e sono andato in un ristorante molto carino vicino a casa, ho spiegato prima, stasera verrò con mio figlio, autistico, anche se fa qualcosa di strano, ma certo, non c'è problema, siamo orgogliosi di averli qui, Poi arriva. Non ha fatto grandi cose, però al minimo cosa eravamo molto osservati, caduto un bicchiere, non è successo niente, era chiaro che non era un posto che mi vivevo bene. La mia strategia è, sono andato in un posto molto periferico e ho trovato un ambiente davvero molto, sono molto legato affettivamente ad alcuni luoghi dove è chiaro che eravamo fuori luogo, eravamo strampalati, ma erano posti dove c'era una cozzaglia di persone sufficientemente strampalati, non ho mai dovuto esibire una diagnosi, non ho mai potevo vivermi la mia presenza. Ma devo dire che questo tipo, proprio per questo tipo di sensazione di stai tranquillo, va tutto bene, non ce l'ho avuta solo in periferia, ce l'ho avuta anche, per dire, nel mio ambiente universitario, tendenzialmente, nella bolla di persone, comunque. sensibili, quindi riesco, mi viene molto più facile fare una geografia dei luoghi negativi, opportuni, e sono tanti, luoghi che possono funzionare, per me ce ne sono un po', ma anche interrogarsi proprio su come creare delle isole che possono funzionare, io ho bisogno di quegli spazi. Quella che è un po' la questione politica che provo a sembrare del libro è: io ho le mie isolette dove posso passare la settimana, il posto dove andare a mangiare, il posto dove andare a fare una cosa, ma sono isolette che mi sono trovato io, ho costruito io, ho le mie persone, e ho le mie risorse. Non parlo solo di risorse economiche che sono importanti, ma non è solo quello, la risorsa di saperti muovere, saperti trovare, ma non tutti ce le hanno, non deve essere il singolo che si deve trovare le isolette, dammi le mie maledette isolette, e soprattutto io ho 3 isolette schifose, ma se si potesse lavorare assieme, mi fai le isolette. No, proprio collegandomi a questo è uno spazio dove si pratica l'autogestione. Quindi l'autogestione significa appunto la fiducia nella nostra capacità di organizzarci e gestirci. Questa ovviamente, l'autogestione si svolge dentro una collettività che è fatta di mille differenze, siamo tutti differenti e ognuno, ognuna vive delle condizioni. Io come donna, una persona autistica, può essere la qualsiasi. E forse quello che si fa in più qui è riconoscere innanzitutto queste differenze, ma non viverle appunto come condizione personale, ma cercare sempre di svolgere un ruolo, avere, cercare di creare uno spazio comune, uno spazio dove tutte queste differenze vengono attraversate, vengono vissute e dove nessuno si sente appunto solo o sola nel gestire appunto quello che qualsiasi possa essere la propria differenza. Il coltivatore qui per esempio è una testimonianza proprio di questo, e il rapporto che poi si crea anche con questo spazio, col permettere a tutte e a tutti di imparare a approcciarsi, a riconoscere il fatto che tu hai una responsabilità verso quella persona, e quindi non puoi girare gli occhi dall'altra parte e pensare che non è qualcosa che non ti riguarda perché non ti tocca in prima persona. Secondo me forse una delle risposte che si possono dare è anche questa, proprio per evitare poi queste isolette. Cioè, secondo me questo dovrebbe essere un concetto che noi esprimiamo sempre, ovunque siamo, andiamo, qualsiasi cosa facciamo, ecco. Grazie, è bellissimo. Credo che sia quello che le femministe chiamano cura, è il senso di cura. Esattamente. Ci sono, innanzitutto, se ci sono domande dal pubblico, ok? Se abbiamo. Ok, vieni. Allora. Anch'io sono un geografo, faccio parte di Smarginando e quindi anch'io ho il vizio di pensare sempre agli spazi, e sia dalla tua discussione che dal libro ci sono un sacco di cose interessanti, anche proprio il modo in cui parli della diversità, no? Quindi del in qualche modo creare degli spazi di inclusione piuttosto che di normalizzazione o di riabilitazione. Ci sono diversi punti in cui si parla della riabilitazione, no? Della cura, come dicevi prima, facevi l'esempio delle associazioni che vogliono la cura, ma soprattutto penso è molto interessante il passaggio sul fatto che appunto la città neoliberista, le politiche neoliberiste creano spazi di inclusione, di esclusione, spazi di esclusione al diritto comune di vivere la città per diverse diversità che possono essere appunto le neurodivergenze, diversità di diverso tipo, e che manca appunto nella pratica di pianificazione, un'attenzione all'inclusione delle diversità, e appunto tu afferisci la causa di tutto ciò anche al discorso che nella pianificazione non vengono in qualche modo coinvolte persone neurodivergenti, ma ci sono solo persone neurotipiche che pianificano la città sulla loro impronta, escludono quindi le differenze. E ti volevo chiedere, non so se ci sono dei casi di città in cui c'è stata in qualche modo una pianificazione di questo tipo, se ci hai pensato, se e quindi appunto come poi ci può essere un tipo di pianificazione partecipata con persone neurodivergenti, e quindi se ci sono casi di città che sono in qualche modo meno neoliberali e più autistiche. Sì, ci ho pensato e ovviamente non ho mai una risposta. Allora, da un punto di vista, diciamo, teorico, l'idea di includere delle persone appartenenti a un qualsiasi gruppo minoritario nelle scelte collettive è una scelta di buon senso, di principio. Si tratterebbe però non soltanto di coinvolgere, ma di un vero e proprio ripensamento. In architettura, per esempio, esiste un piccolo dibattito portato avanti nei Disability Studies sull'idea: io progetto un edificio, lo progetto, poi quando ho finito devo trovare questi cacchio di quattro accorgimenti per mettere quattro rampette e renderlo adatto alle persone che hanno un corpo diverso dallo standard. Qualcuno provocatoriamente, esiste un piccolo dibattito su come dire: no, tu non disegnarlo e poi alla fine metti il correttivo, ma prova fin dall'inizio a progettare uno spazio radicalmente differente per corpi radicalmente differenti. Tutto questo nel mondo della neurodivergenza, che io sappia, non esiste, perché è estremamente più complicato, perché le persone con la disabilità motoria hanno una capacità di autodeterminazione, di espressione delle proprie esigenze, che non ha nulla a che vedere con molte persone neurodivergenti, non tutte, però insomma è un qualcosa. Esistono però accademici neurodivergenti, accademici autistici, e a quanto pare sono estremamente marginalizzati e stigmatizzati, quindi un primo passo sarebbe includere. Ulteriore passo è quello di cui parlavamo prima, provare a includere anche persone che non hanno la razionalità del discorso performativo tipico di un mondo accademico. Sul punto di vista di realtà, esistono alcuni esperimenti di città dove, diciamo, c'è una maggiore integrazione fra persone che hanno un disagio cognitivo, sono integrate maggiormente. Esistono alcuni esperimenti nord europei, non ne so molto, mi sembrano fantastici esperimenti, diciamo, da vetrina, insomma, non sono, sono quasi un, non so come dire, una Disney World, non voglio essere rispettoso, però c'è il quartiere Strambo, facciamo il quartiere Strambo, ma perché no, magari sì, non li conosco così bene. Esistono però città che hanno chiaramente un'attenzione rispetto alla diversità, che è chiaro che ci sono città più oppressive. Il mondo mediterraneo non esce vincente da questo punto di vista, e città che hanno un'apertura rispetto a questi temi superiori, e il mondo nord europeo da questo punto di vista sicuramente non privo di critiche, però ne ha delle esperienze migliori. Mi interessano molto le, non so, gli esperimenti in generale, non ho un'opinione, ma gli esperimenti, io ho una vecchia simpatia per Cristiania, per esempio, per un quartiere che è una realtà piuttosto simile, io ho questa che è un posto che ha con enormi limiti, un processo di commercializzazione pazzesco, cose che non mi annoio a nominare, però mantiene ancora un'attitudine di apertura verso lo strambo, tutto sommato, primo livello, e luoghi dove si sperimentano modi di vivere la famiglia, l'educazione, radicalmente differenti, e ho la fantasia che quel tipo di posto, per esempio, possa essere fatto in questi stati, porteremo Teo a Cristiani e vediamo cosa succede. Magari no, non lo so, sono esperimenti, questo è il punto, però quando è un modello standard, gli esperimenti diventano preziosi. Grazie. Altre domande? Avvicinati. Dove vado? Qua. O se vuoi, dai, andate avanti. No, perché domande è una riflessione, perché innanzitutto io non ho ancora letto il libro, ma lo leggerò con grande interesse, e io sono una terapista della neuropsicomotricità, quindi sì, lavoro con bambini con varie insomma sfaccettature, anche bambini autistici e bambine autistiche. E, insomma, mi piaceva la riflessione sul come facciamo a cambiare le cose, perché mi rendo conto che il modello medico comunque, nonostante poi insomma col DSM nuovo sono cambiate tante etichette, però poi di fatto nella pratica esistono ancora delle considerazioni che sono ormai superate, no? Come autismo di alto e basso funzionamento, e io tutti i giorni faccio una lotta nel mio centro dove sto per decostrutturare il linguaggio, perché comunque mi rendo conto che siamo ancora ancorati a quegli studi dell'università che non tengono conto dell'autodeterminazione che possiamo avere oggi delle persone autistiche, cioè il fatto che adesso ne possiamo accedere a dei contenuti anche tramite i social di persone che si raccontano. E io penso che questo, e quindi anche questo libro mi piace, perché comunque secondo me il valore della narrazione che viene, come si diceva, dal dentro è diversa dal modello medico. E però penso che il vero passaggio avverrà quando a livello proprio universitario ci sarà un cambiamento, cioè nel momento in cui all'università, quando io vado a studiare varie condizioni tra cui anche l'autismo, non mi si parla più di disturbo autistico e non si parla più di funzionamento o di cose che non so fare o di problematiche o di comportamenti disadattivi, quanto più di come poter insegnare magari a quei bambini che hanno, nel mio caso, anche una disabilità cognitiva, perché il problema ovviamente non è la condizione autistica in sé, ma il fatto che a volte ci sono associate delle disabilità cognitive anche gravi e quindi insomma delle difficoltà importanti, però non è lavorare nel eliminare le caratteristiche autistiche, ma è un lavorare per poter dare degli strumenti a quelle persone per poter essere più a loro agio nella società, perché comunque la società non è una società autistica. E secondo me finché non ci sarà un cambiamento proprio a livello di istruzione, poi sì, per carità, a livello sociale è tutto meraviglioso, però comunque nasceranno sempre nuove figure che hanno comunque quella mentalità che secondo me va cambiata. Sono tendenzialmente d'accordo con tutto quello che hai detto, aggiungo una provocazione. Forse un pezzo di tutto questo è anche decentrare l'importanza del sapere accademico. Nel senso, non voglio dire che ovviamente ti racconto la mia storia. Ho conosciuto diverse, ovviamente, persone neuropsichiatre, persone che fanno neuropsicomotricità, quindi neuropsicomotriciste. Lo declino al femminile perché sono sempre state donne, sì, nella mia esperienza. Almeno in quello. E nella mia esperienza, appunto, esperienza da utente, sì, certo, sono persone che avevano da un lato una competenza formale, un linguaggio formale, ma dall'altro avevano una grandissima creatività e sensibilità nel trovare soluzioni, nel cercare di attivare un interesse, cercare di trovare il magico modo di creare un gioco che interessasse un bambino autistico tendenzialmente disinteressato a tutto. Ora, la mia impressione è che gran parte di quel saper fare, di quella magica arte di inventare il gioco interessante, non venisse dallo studio universitario. Assolutamente no. Venisse da quello che chiamiamo un sapere situato, e nel tuo corpo, nella tua sensibilità, nella tua postura, quella roba era preziosissima. Poi era importante anche saper restituire un'osservazione con un certo tipo di linguaggio, ma non era il pezzo più importante. Ora, gran parte delle neuropsicomotriciste che ho incontrato tendevano a esaltare molto quell'aspetto formale, del tipo: non è che il gioco che faccio io di far finta di tagliare la torta lo faccio come qualsiasi cazzo di babysitter, io sono neuropsicomotricista. Non voglio sminuire, però tendevano molto a enfatizzare il lato invece del un linguaggio anche formale, complesso. E capisco che sia così, la società ti ha fatto, hai studiato tanti anni, hai bisogno di un riconoscimento, un posizionamento, ma non, scusa, non parlo di te, sì, sì, sì. Tutto sommato, quel tipo di competenza banale, cavolo, è fondamentale, quello è importante, io avevo bisogno di quello. Quindi va benissimo cambiare il mondo accademico, però tutto sommato, sì, è importante, ma è meno importante di quello. In un campo come questo, di cui si sa veramente poco, non è così, forse, quello dico provocatore, questa è una classica affermazione per cui potrei essere preso in giro, però, okay. E in più anche in ambito universitario, però ci sono dei critical, sta prendendo piede questa cosa, la trasformazione sta prendendo forma. No, no, assolutamente, io tutte le cose che so, non le so grazie all'università, ma grazie a libri letti di persone autistiche, persone che seguo, quindi ok, è così. C'è un cambio generazionale, però, io e i tuoi professori non so quanti hanno letto roba di no, testimonianze nessuno, autistiche. Nessuno, però io non sono una persona, cioè non perché io chissà che competenze abbia, però... cioè secondo me non può essere una domanda che viene solo ad personam, cioè per fare una rivoluzione che sia comunque culturale, cioè sì. Quello che intendo è che ci vorrebbe un cambiamento anche strutturale per fare in modo che anche quelle persone che magari non gli viene la domanda, la curiosità, comunque abbiano, come dire, una spinta a dire non è solo così, cioè questa era un po' la riflessione, sì. Sennò poi diventa che solo io perché decido di fare, allora magari mi... informo, è una cosa che, come diceva lei, sta avvenendo ancora, insomma sta nascendo un dibattito, un cambiamento, quindi sicuramente siamo all'inizio, però ecco, io sento che ancora in ambito medico si fa fatica tanto. No, hai ragione, penso sia assolutamente così, poi ne so anche poco, al di là di parlare con i medici, ne so anche poco, ma anche culturalmente c'è questa idea, l'ha detto il medico... sta lì, ma può anche essere una cazzata, tipo prova a togliere i legumi dalla dieta e vedi se è un... veramente io ho sentito ogni genere di roba anche antiscientifica. Immagino. Ma pronunciata da un medico ha un valore, pronunciata da qualsiasi altro tipo di competenza diversa da un medico, grazie. Grazie a te, scusate. Altre domande? Eccola. Puoi urlare anche se non hai. Se vuoi. Come preferisci? Come preferisci? No, dai, cioè, se te la vieni pure qua. No. Scusa. Allora no. Io eccoci. Vorrei esprimere un pensiero un po' abbozzato nella mia testa. Eppure anche su questa cosa che si è detto delle competenze universitarie, sì. O non. E... cioè, secondo me, quella che, di cui tu parli potrebbe essere una competenza, non ti dico universitaria, però una di quelle cose che se uno volesse si potrebbe mettere in campo fin dalle elementari, cioè studi la matematica e ti chiedi perché la studio, come la studio in comunità, cioè in comunità, in un contesto in cui ti abitui da sempre e per sempre a interfacciarti con questioni che si richiamano costantemente a... cioè sono le cose che i pedagogisti dicono dagli anni dei secoli, purtroppo non c'è mai una riforma che si fa portatrice. Vabbè, voglio dire soltanto un'altra cosa, eccola, che c'è un libro molto bello, Lettera a una professoressa, dei ragazzi di Barbiana, che sono questo gruppo di ragazzi che fece una scuola nel Mugello, e loro dicono una cosa, il dopo scuola. Cioè, secondo me, il dopo scuola, effettivamente, io ci sto pensando soltanto questi giorni perché io, voi lo conoscevate, io non lo conoscevo, però effettivamente il dopo scuola ti permette di creare quello spazio in più in cui tu vai oltre la materia, vai oltre la didattica e ti dai il tempo. E però, secondo me, è importante, cioè, io non lo so come funziona, però appunto cercare poi le piccole isole e quant'altro, le trovi, non le trovi, funzionano, non funzionano, però magari mettono anche un po' nella condizione di ok, allora sono io che devo scegliere, vado a cercare la cosa migliore, però questa cosa poi va ad impattare la scuola pubblica, perché la scuola pubblica è messa alle strette da questa concorrenza con dei mondi che sono completamente svincolati, completamente elitari anche la maggior parte, per quanto poi dopo dicono sì dai il 30% lo paghiamo noi degli ingressi, quindi questo. Sono assolutamente d'accordo, io so poco di scuola e il mio rapporto con la scuola è stato, non dico conflittuale, ma deludente. La scuola mi ha offerto poco e sì, la scuola dovrebbe essere il punto di partenza per tutto questo. Sì. È la scuola pubblica, cioè io punto su quello. Pubblica e dopo scuola, le scuole aperte tutto il giorno. Mezza parola, a parte sono d'accordissimo sul dopo scuola, noi su questo facciamo un sacco di lavoro, preziosissimo il dopo scuola Mammut. E invece no, vorrei anche spezzare un pochino una lancia rispetto ai medici, che sono stato il primo ad attaccare tutto, però effettivamente nell'esperienza dello sportello, noi abbiamo uno sportello popolare per cui tutti i problemi di accesso al Servizio Sanitario Nazionale, noi diciamo venite, troviamo, se ti danno una visita tra molto dopo la priorità che dovresti avere, una visita troppo lunga come succede sempre, o non ti riceve l'INPS, o tutti questi problemi, noi aiutiamo, seguiamo le persone e effettivamente riusciamo pure a risolverli, e quindi diciamo abbiamo una certa casistica abbastanza ampia. Ed effettivamente ci sono tutta una serie di patate bollenti che vengono alla fine girano, all'ultimo arrivano al Sistema Sanitario Nazionale, che ovviamente si trova stretto. Per esempio tra neurodivergenze e educazione c'è tutto un enorme filone dei BES, dei bisogni educativi speciali, dove palpi proprio la differenza di atteggiamento tra la scuola, il sociale in generale, l'assistenza, l'assistente del municipio, perché poi ci sono assistente del municipio e assistente della ASL e della regione, e si sta creando una spaccatura sempre più grande tra questi due mondi. E è vero che poi alla fine, cioè più che altro i medici sono anche quelli a cui gli viene dato il ruolo alla fine di dire o sì o no, per cui c'è questo l'imbuto del numero dei bisogni educativi speciali che vengono segnalati e del numero che veramente vengono diciamo presi in carico dal servizio pubblico, ovviamente subisce un super ridimensionamento a un certo punto, e per convenzione noi questo lo facciamo fare ai medici, cioè come dire, loro sono pure quelli che si ritrovano con i conti tra le risorse, quello che posso fare e quello che vorrei fare, quindi c'è anche questa aggravante, poi, come dire, non è solamente un pensiero vecchio, e sicuramente lo è, perché ha delle radici proprio nel classismo bianco occidentale, però c'è anche questa ulteriore difficoltà, come dire, e secondo me se non la guardiamo rischiamo di creare un nemico che è sovradimensionato, un po' errato. No, ma vorrei proprio non fosse un nemico. Vorrei proprio non fosse un nemico. Io mi sembra banale dirlo, ma se ho un certo tipo di bisogni, io ho bisogno del sapere del medico, ho bisogno della sensibilità sociale, ma devo trovare un modo che mi stiano d'accordo. Allora, se non ci sono altre domande, noi chiudiamo qui. Ringraziamo tutte e tutti, tutti voi di essere stati qui ad ascoltarci a questa presentazione. A questa presentazione molto, molto punk e molto bella. Ringraziamo il coltivatore Smarcinando e Alberto Manolo. Vi ricordiamo inoltre che è possibile acquistare il libro al banchetto che trovate qui in fondo, che ha una selezione tra l'altro molto molto bella. E niente, se voi avete qualcosa da aggiungere, vai. Devo aggiungere, abbiamo parlato di isole, per me non è un caso che tutta i nostri festeggiamenti per i 30 anni della torre si chiama "Ma chi l'ha detto che non c'è?", che è un po' insomma questa isola che non c'è, che le isole ce le creiamo, ci prendiamo il tempo, gli spazi e speriamo che siano sempre di più. Grazie a tutte e tutti. L'ultima cosa, io dico che tu ti trovi anche una riflessione di un nostro ragazzo che verrà morto con noi, quindi farvi piacere di leggerlo e se vedrete anche il nostro banchetto se potete conoscerci meglio, conoscere meglio il progetto. Grazie ancora. Grazie Alberto, grazie. Pure tu, grazie.